provassi a baciarti, so che non andrai, perché il sogno sai, lo comandi anche tu, perché il sogno sai, lo comandi anche tu. Provo a immaginare il momento del no, nel silenzio assoluto, rimbomba il saluto, ma se penso al passato e quello che hai fatto tu, sono contento lo sai, della gioia che dai, sono contento lo sai, della gioia che dai. No, no, no, oh, ti prego non parlare, no, no, no, oh, ti voglio dimenticare. Cielo stellato, penso al mare truccato, leggo un libro noioso per non stare con te. Ogni sforzo che faccio, inutile, ogni sforzo che faccio, inutile. I bisogni, lo sai, fanno parte di te, il bisogno di amare, di essere amato, e se questo poi manca, tu allora che fai? Alzati in piedi e con coraggio tu vai, alzati in piedi e con coraggio tu vai. No, no, no, oh, ti prego non parlare, no, no, no, oh, ti voglio dimenticare, dimmelo, se devo cambiare. Aspettare, no, no, no, dimmi.